grado di bisogna essere, anche essere, no? Non è che sono Wikipedia. No, no, vengo di qua. No, è una cosa che mi ritrovo nel corso del vecchio, ovvero che andando avanti con la meditazione potrebbe essere che aiuti a sognare meglio. Sì, si apre un po' il mondo onirico, non per tutti, però ci sono tanti casi, una buona percentuale che si amplia il mondo onirico e quindi è facile che, non è che si inizi a sognare, è facile che si inizi a ricordare i sogni. Però sono sempre quelli verso mattina alle 5, alle 6, ci si ricorda. Ah, dipende, perché poi il ricordare il sogno è sempre, appena svegli ci si ricollega alle ultime immagini e poi se si sta un po' lì a letto si riesce a risalire, a ricollegare, se no si scappa subito per andare a lavorare o del genere. Se si rimane un po' lì, quando si aprono gli occhi c'è un grado di consapevolezza maggiore dato anche dalla meditazione, quindi ci si aggancia come alle ultime immagini e si riesce a recuperare il sogno. Perché ti è capitato? No. Capito un paio di cose un po' particolari. Bene. In tutto il mondo dei sogni, chiaramente non è questo il luogo, mi occupo abbastanza anche di quelli, della buona qualità del sogno. Sì, sì. Perché è importante, insomma, fa parte della nostra. E però c'è anche tutta una pratica interessante che è il diario dei sogni, il diario onirico, che è un ottimo strumento di consapevolezza. Lì però bisogna avere un po' di conoscenza e fare, insomma, io tengo dei seminari anche su queste cose, quindi quando saremo più avanti con la pratica, se qualcuno è interessato, è una bella, un bel lavoro quello, quello del diario onirico è un gran bel lavoro. L'ho tenuto per 6-7 anni e tutte le mattine trascrivevo i sogni e devo dire che nel tempo si costruisce un disegno interessante, soprattutto simbolico. Cogliere i simboli che ci sono nei sogni è veramente un lavoro molto molto interessante, anche perché i simboli ci riconnettono con qualcosa di profondo, no? Noi siamo sempre su un piano mentale abbastanza reattivo, razionale. I sogni invece ci danno un materiale che è impossibile da dipanare con la mente razionale, dobbiamo proprio abbandonarla e affidarci invece ai messaggi che ci vengono dati e con il tempo, e anche studiando, cominciando a conoscersi un po' meglio, eccetera, emergono delle immagini e dei simboli veramente molto interessanti. Potrebbe essere un lavoro che faremo andando avanti. Direi che noi partiamo, sì, assolutamente. Cominciamo con il rilassamento. Donatella, se arriva qualcuno ancora, dici che si fermi. Sì. Lì, per qualche minuto, grazie. Ok. Allora, ci distendiamo in Shavasana, che è la posizione del cadavere, no? Nel senso che ci mettiamo distesi con la schiena ben appoggiata un pochino e come sempre iniziamo con un po' di rilassamento. Ecco, le prime due o tre regole ve le ripeterò per un po' in modo che ve le ricordiate. Beh, prima di tutto, se abbiamo qualcosa che costringe, cerchiamo di slacciare, di ammorbidire in modo che non abbiamo cose che ci legano, no? Dopodiché osserviamo da questa posizione due punti del corpo, sono due punti molto importanti. Uno è il collo, e se avvertiamo tensione mettiamo sotto una felpa, un cuscino, ma solo se avvertiamo tensione, altrimenti va bene così. L'altro punto sono i lombari, la parte bassa della schiena. Se avvertiamo tensione possiamo mettere sotto un cuscino, sotto le ginocchia intendo, una maglia, qualcosa, oppure addirittura piegare le gambe e appoggiare i talloni sul tappeto. Quindi quello che facciamo inizialmente in ogni momento di rilassamento frazionato o di scan è quello di trovare inizialmente una posizione molto comoda che ci permetta proprio di abbandonare il corpo. Le braccia sono lungo i fianchi, le palme possibilmente rivolte verso l'alto. Gli occhi sono morbidamente chiusi. Iniziamo con qualche respiro più profondo. E cerchiamo in espirazione, quando l'aria esce dal corpo, cerchiamo già di lasciare andare. Piano piano il nostro respiro si farà un po' più leggero, un po' più profondo. Dopo i primi respiri un po' più ampi, il nostro respiro piano piano si normalizza. E semplicemente noi lo seguiamo con la nostra attenzione, cercando di non modificarlo, semplicemente osserviamo. Ora vi nominerò alcune parti del corpo e con la semplice attenzione della mente cercheremo di rilassare le parti del corpo che vi nominerò. Quindi portiamo l'attenzione a quel punto e espirando cerchiamo di rilassare, di lasciare andare. Iniziamo dai piedi. Le dita dei piedi, le piante, il dorso, semplicemente con l'attenzione cerchiamo di rilassarli, di lasciare andare eventuali tensioni. Risaliamo ai polpacci e poi piano piano sentiremo che le gambe si vanno via via rilassando. Se dovessimo distrarci, se dovessero subentrare altri pensieri, ritorniamo al respiro e lo osserviamo, non cerchiamo di modificarlo, non cerchiamo di intervenire sul corpo e sul respiro, ma rimaniamo in osservazione. Osserviamo ora il bacino, cercando di rilassare la parte del bacino e poi i glutei. Portiamo ora l'attenzione alle mani, le dita delle mani, le palme, il dorso. Risaliamo agli avambracci e poi alle braccia. E ad ogni espirazione cerchiamo proprio di lasciare andare la parte del corpo su cui abbiamo portato l'attenzione. Osserviamo ora il torace e il ventre. Cerchiamo di ammorbidirli. Torace e ventre. Ed ora portiamo l'attenzione alla schiena. La schiena spesso un po' contratta, un po' tesa. La osserviamo. e cerchiamo proprio di rilassarla sul tappetino e lasciarla andare. È come se la schiena si aprisse quasi per sprofondare nel tappetino. Ciò che è importante è che non ci stiamo addormentando. Siamo molto attenti, molto presenti. Osserviamo via via il nostro corpo che si sta rilassando, sta abbandonando ogni tensione. Ma noi siamo molto presenti, molto attenti. Portiamo ora l'attenzione al collo, alla nuca e alla sommità del capo. Distendiamo le rughe della fronte. Le palpebre sono pesanti. La bocca rimane un po' aperta perché così ammorbidiamo la mandibola. Piano piano il volto, il capo, l'intero corpo si stanno rilassando, stanno lasciando andare ogni tensione, ogni contrazione. E noi siamo molto presenti ed osserviamo il nostro corpo. Ed infine ritorniamo al nostro respiro. Abbandoniamo il corpo che ormai si sta rilassando completamente e ritorniamo ad osservare il ritmo del respiro. L'aria entra, l'aria esce. In maniera molto naturale, priva di sforzo. Prima di alcun intervento. Ed ora, lentamente, riprendiamo contatto con il nostro corpo e lo facciamo con piccoli movimenti delle estremità. Torniamo a sentire le dita delle mani, le dita dei piedi, torniamo a sentire le gambe e poi le braccia. E piano piano, lentamente, torniamo a riabitare il nostro corpo. Fino a quando sentiamo di poter riaprire gli occhi. Quando riapriamo gli occhi, rimaniamo ancora per un po' fermi, cercando di prendere contatto con l'ambiente circostante. Dopodiché, quando sentiamo che per noi è venuto il momento, ci possiamo rimettere seduti sul tappetino, ricordando di ruotare su un fianco, per non danneggiare la schiena. Lentamente, qui si fa tutto lentamente. meglio la droga. Ricordate che a mano che prendete contatto con questa pratica diventerà sempre più profonda fino a diventare quasi una meditazione. E la respirazione dovrebbe essere sempre fatta attraverso le narici o? Sempre naso, però ciò che è naso. All'inizio, quando vi ho detto di fare dei respiri più profondi, fate magari naso-bocca in modo da aprire bene il torace. Due o tre respiri, non di più. Poi naso-naso, rimanete sul naso-naso. Ciò che è importante, sentivo qualcuno respirare in maniera un po' forzata, c'è la mente lì. La mente entra quando cerchiamo di forzare il respiro. Allora, osserviamo e torniamo a lasciare che il respiro si conduca da solo. I maestri dicono la mente segue il respiro come l'ombra segue il corpo. Quando voi camminate l'ombra vi viene dietro, sempre con il corpo, qualsiasi sia il luogo dove andate. È la stessa cosa, la mente si mette proprio dietro. Ci stiamo abituando piano piano proprio a non intervenire come mente nei processi del fisico, del corpo. Questo è un allenamento per noi, proprio perché questo allenamento ci aiuterà poi ad osservare quelli che sono i movimenti più sottili, che sono i movimenti mentali e emotivi, quelli su cui è molto difficile non intervenire e non essere coinvolti, estremamente difficile. Ma non possiamo partire da lì, dobbiamo partire dai processi del fisico. I processi del corpo sono quelli un po' più semplici da vedere perché semplicemente ci mettiamo ad osservarli. Se ci fa male un ginocchio, sentiamo che noi siamo altro del male al ginocchio, giusto o no? Cioè sentiamo che è parte di me ma non è tutto me, perché sennò farebbe male tutto il corpo, no? E questo piccolo percorso di disidentificazione, che è il tema di cui parlerò questa sera, è un primo approccio per distaccarsi un po' dai processi fisici. Nella Vipassana, che è, come vi dicevo l'altra volta, un po' la pratica meditativa, un po' l'università, diciamo così, no? Anche una metafora non completamente giusta, si parla dei quattro stati di consapevolezza. Magari in questo percorso qualcosa di più vi dirò. Ma il primo stato è proprio quello dell'osservazione dei propri processi fisici. È quello che ci dà il primo meccanismo, il termine è bruttissimo, ma che ci dà il primo approccio a capire che siamo altro rispetto ai nostri processi fisici. I nostri processi fisici, di qualunque natura siano, quindi quelli completamente automatici, come il funzionamento dei reni, oppure quelli indotti, come il respiro ad esempio, perché il respiro cambia molto, no? Sono processi dai quali possiamo estraniarci, disidentificarsi, estraniarsi non mi piace, e riusciamo ad osservare. Questo è un primo meccanismo ed è importante, è fondamentale. Allora, state registrando? Sì, perfetto. Ma se volete vedere anche qua il registratore, meglio. Di una resistenza meglio. Ecco, poi datelo che volete in registrazione, anche diciamo cose scabrose, però se sono contestualizzate sono fatte da ascoltare, altrimenti tenete nel gruppo. Contestualizzate vuol dire che hanno un senso, se magari voi fate una piccola introduzione poi dire guarda, ho sentito uno che diceva queste robe qua. Allora, i temi su cui io vorrei coinvolgervi stasera, ma facciamo pratica naturalmente, sono due. Uno è la disidentificazione, il tema puramente teorico, e uno è i cinque impedimenti, che invece è un tema puramente tecnico, metodologico, dai. Tecnico non mi piace. E quindi sono due temi che sono essenziali, non mi dilungherò molto e magari approfondiremo, perché sono fondamento della pratica meditativa, di qualsiasi pratica meditativa, perché sono oltre la pratica meditativa, soprattutto la disidentificazione, nel senso che fa parte del nostro modo di essere. E adesso cercheremo di arrivarci. Partiamo però dai cinque impedimenti. Anche perché così non so se in questa settimana, io mi auguro, ma più che altro vi auguro di aver meditato tutti i giorni, spero, insomma, perché così avrete un po' di materiale per dire: ah sì, vedi, io ho sentito quella cosa là che adesso mi sta spiegando Demetrio. Non meditando non avete l'esperienza per poter confrontare le situazioni che ora vi descriverò. È per quello che è essenziale. E guardate, come dicevamo un'altra volta, la conoscenza è una parte molto importante e quella cercherò di darvela io. Ma senza l'esperienza sul campo rimane vuota, senza alcun tipo di impatto reale sulla vostra vita. Quindi la conoscenza diventa bagaglio, ma il bagaglio diventa importante se riesco poi a confrontarlo con ciò che faccio, perché in ognuno di noi avrà, sarà molto simile l'esperienza, ma sarà peculiare, perché ognuno di noi ha le sue peculiarità, giusto? Non siamo cloni, ok? Allora, i 5 impedimenti. Poi questo è uno dei file che vi metterò sul gruppo, in modo che abbiate anche per andarvi a scartabellare. Allora, 5 impedimenti. Sono a coppie. Vedete, 5 come si fa a coppie? Cominciamo bene. Nel senso che ci sono le prime due coppie, le seconde due coppie, poi l'ultimo ha una doppia valenza. Allora, si comincia da quelli più fisici, diciamo così, che sono il torpore e l'agitazione, che vengono chiamati i nomi pali, non ve li do perché tanto non serve, vediamo se nel testo mette nome diverso, ma insomma il torpore e l'agitazione sono le due facce della stessa medaglia. Pigrizia, va bene, e irrequietudine, stessa roba. Quindi torpore e agitazione. Il torpore viene ad esempio a queste ore meditando, no? Quando si prova a stare in presenza e in consapevolezza, semplicemente sentiamo che il corpo ci chiama e si scende magari da distesi anche più facile, oppure si comincia a, la testa comincia a cadere e cominciamo a fare fatica. L'irrequietudine di contro è praticamente l'altra faccia della stessa medaglia ed è un'agitazione che sale proprio durante la meditazione, che a volte stupisce perché dice: per quale motivo mi devo agitare, che sono tranquillo qua, mi sto prendendo cura di me, per quale motivo mi sento l'ansia, l'agitazione che si apre. Allora, per quanto riguarda l'agitazione è abbastanza semplice, è perché si aprono dei canali, e se siamo persone un po' agitate di natura, oppure se abbiamo magari immediatamente dopo degli impegni che ci portano all'agitazione, è facile che questi ci prendano, ok? Quindi non so, dobbiamo tenere un esame, oppure fare una conferenza, oppure tante altre cose. Io i primi anni che facevo conferenze e non avevo ancora una meditazione così buona, diciamo, no? Ancora così ben salda, facevo la meditazione della mattina e la testa andava immediatamente alla conferenza della sera, tutto a posto, le slide sono a posto, ma poi comincia un film e se perdi le slide, cioè se perdi le slide, lo copia, pensa dove le hai copiate, spedisci via mail magari, ma tutto nella testa finché meditavo, no? Ecco, adesso magari si brucia la pila del proiettore, la lapide. Perché? Perché sale questa agitazione in vista di, oppure per una cosa passata. Allora, è normale, va benissimo. Che si fa? Che si fa? Allora, un primo fattore è puramente fisico, quindi l'espirazione, che è un fattore calmante e rilassante, va protratta un po' di più. Quindi con un po' di volontà, semplicemente cerco proprio di stare un po' di più sull'espirazione. Tra l'altro, tecnicamente, l'inspirazione di solito dura un terzo di tutto il respiro. Un terzo, due terzi, ok? Un terzo inspiro, due terzi espiro, di solito. E quindi l'espirazione mi porta a stare un po' più calmo. faremo anche dell'altro, tipo la meditazione camminata per persone che si agitano un po' è utile, scarica un po' di tensione, mi metto seduto e il fisico si rilassa un po' di più, ok? Si lavora soprattutto sulla respirazione, ma sull'osservazione. Questa irrequietudine non ha ragion d'essere. E quindi posso anche darmi dei comandi interiori dicendo non ora. Proprio me lo dico, non ora. Oppure mi tengo un blocchetto vicino, che sarebbe sempre buono in qualsiasi caso, e se ad esempio mi vengono in mente tutte le cose che devo fare la mattina e queste mi agitano, me le scrivo. Le scarico su casa. Okay. E poi torno a meditare. Vedete che sono tutte cose molto pratiche, molto pragmatiche. Non si immaginava adesso vado, mi insegna a volare. No, la mente è uno strumento che va disciplinato. È uno strumento che assomiglia più a una scimmia impazzita, a un cavallo imbizzarrito, più che a qualcosa che devo ammansire, eccetera. Devo stare un pochino con lui e devo piano piano ammorbidirlo con tutti questi escamotage. Torpore. Il torpore ha una valenza come l'agitazione, ma questo ha una valenza anche un po' più sottile, a mio modo di vedere, perché è facile dar colpa alla stanchezza. Allora ci sta, possiamo essere stanchi, nel senso che alla sera mi metto a meditare e ho una giornata sulle spalle. Mi metto a meditare la mattina e comincio a fare così con la testa, allora c'è anche una riflessione da fare. Sì, potrebbe essere che ho dormito male la notte, ma ci sono anche delle riflessioni sullo stato del torpore che viene quando mi metto a meditare, soprattutto la mattina. Lasciamole là un attimo. Vediamo le cose tecniche. Cose metodologiche. Cosa faccio? Se comincia a venire, mi è mai venuto il torpore durante questa settimana? E vai. Allora, cosa faccio? Posso aprire gli occhi a fessura, in modo che entra un po' di luce e mi aiuta la luce, ok? O se no, posso inspirare, il contrario del prima, in maniera più profonda, perché l'inspirazione attiva, ok? L'inspirazione è attivante. Infatti prima di una prestazione sportiva uno inspira bene e poi si lancia, giusto? Perché è attivante, il contrario dell'irrequietudine. Cosa posso fare ancora? Mi alzo, faccio due passi e mi rimetto giù. Ancora torpore, che cosa faccio? Vado e mi lavo la faccia. Una semplice sciacquatina al viso, se non l'ho già fatto, sarebbe meglio già farlo, e poi mi rimetto giù. Torna il torpore, basta. Cioè, andiamo a lavorare, l'accanimento terapeutico non va bene, non è la mattina adatta. Proviamo un po' di escamotage, ci sediamo, siamo ancora lì. Qual è, riapriamo il cassetto della riflessione, qual è la riflessione che ci portano i maestri quando sorge il torpore e dicono, quando sorge spesso, perché una mattina ci sta, sono stanco, ma quando sorge spesso, qual è la riflessione? Manca l'obiettivo. Ci dicono che l'obiettivo non è abbastanza forte e la motivazione non è abbastanza radicata per tenermi nella pratica. Faccio un esempio. Avete una passione nella vita? Sì. Oh! Sì. Non pretendo sia la meditazione. Allora, questa passione nella vita è una cosa che vi tiene desti. Se voi siete impegnati nella vostra passione, anche se sono le 3 di mattina, non vi sfiora neanche il sonno, vero o no? Sì, sì. Perfetto. È la stessa cosa, è uguale. E allora la riflessione che ognuno si deve fare fa, però io non è che mi è venuta tutta questa passione per ora. Il mio compito è anche quello di provarli a farvela venire. Però fatevi aiutare anche dai testi, dai maestri e da un obiettivo forte. Quindi, non so, io affronto la vita sistematicamente con l'ansia. Non riesco in nessun modo a far tacere questa voce che continua a parlottare. tre quarti delle mie relazioni finiscono in litigate, adesso sto un po' enfatizzando, ok? Per quale motivo? Quando smetto di pensare che è colpa del mondo e comincio a lavorare su me stesso, allora questo potrebbe essere un obiettivo interessante, sì o no? Sì? Perché si tratta di cominciare a lavorare per una trasformazione. Allora uno dice, e allora al mattino altro che torpore, mi metto lì, pratico costantemente, con desiderio, con voglia, vado anche a studiare, cerco di capire, perché sicuramente mi avrete delle robe che non stanno in piedi. E quindi in questo modo vi create voi una buona motivazione. Queste sono le prime. Seconda coppia. La seconda coppia è un po' più delicata, diciamo. Nei testi viene quasi sempre messa per prima. Io la metto per seconda perché? Perché quelli nei testi viene messa per prima perché loro parlano, sono gente che fa vipassana, quindi sono monaci, gente che conosce benissimo queste robe. E quindi la mettono per prima perché è una coppia, anche se coppia fittizia, di stati d'animo che sono un po' più sottili, E sono, vengono chiamati attrazione e repulsione, ok? Oppure vengono chiamate, anche chiamati desiderio e attaccamento. O se no dei testi? Sì, desiderio, malevolenza, desiderio e attaccamento. Cosa significa desiderio e repulsione? Attaccamento e repulsione. Significa, non solo nella meditazione, ma questa è una cosa che riguarda un po' tutta la vita, significa che molto spesso io vengo attratto dalle cose che mi piacciono e queste cose che mi piacciono mi attraggono creando in me uno stato di attaccamento. E quando la mente comincia piano piano a liberarsi, sorgono queste cose che portano all'attaccamento. Quindi questo desiderio, sapete qual è la radice etimologica del desiderio? È un termine latino che deriva da desidere, era l'afflato dei militari romani che nelle guarnigioni parlavano fuori, guardavano il cielo aspettando che andassero via le nuvole per vedere le stelle, perché era l'unico modo per illuminare un po'. Era tutto buio, non c'erano neanche i lampioni, no? E pur di avere un po' di luce vicino, avevano questo afflato che era un misto di desiderio, diciamo così, bello, anche, ma non del tutto poetico, ma per vedere. E quindi quando andavano via le nuvole c'era questo desiderio del cielo, no? E questo desiderio che noi abbiamo crea attaccamento. L'attaccamento è una delle problematiche più grosse che si incontrano nella vita così come nella meditazione. Nella meditazione è un attaccamento inizialmente anche molto semplice, nel senso che non ha a che fare con i grandi attaccamenti che abbiamo nella vita, quindi non so, l'attaccamento alle cose, del materialismo, queste cose un po' filosofiche. Semplicemente i nostri sensi vanno e si distraggono con, non so, il suono del ticchettio di un orologio, il vicino che parlotta, una macchina che passa, queste cose qua distraggono, la mente comincia a lavorare e ormai è stata portata via. E lo stesso vale per la repulsione, e la repulsione è il suo esatto contrario. Quindi la repulsione, oltretutto, ha anche un suo modo, diciamo così, di disimpegno, mi spiego meglio. La repulsione nei confronti della meditazione mette in moto un meccanismo subdolo. Dopo un po' che meditate e che vedete che secondo voi non ci sono dei risultati eclatanti, perché uno giustamente preso dall'entusiasmo dice beh, adesso due settimane che medito sarò in grado, no, di usare i raggi laser dagli occhi. Non funziona così, nel senso che allora si comincia a pensare di non essere in grado, di non fare le cose giuste, e si comincia a pensare che la meditazione non fa per me, e c'è questa repulsione. Si mette in moto un meccanismo anche sottile inizialmente che comincia a incolpare un po' di figure. Io, e va benissimo, sono incapace, devo trovare un altro che mi insegni bene. Perfetto. E poi piano piano ad arrivare ad incolparsi. Non fa per me, non sono all'altezza, non sono in grado. Guardate, questi sono meccanismi oliatissimi. Quello che vi prego di fare è, come sempre, se dovessero sorgere, in qualsiasi forma sorgessero, osservate. Osservate. Rimanete sempre in osservazione. È un abitato della vostra mente. Sono pensieri che sorgono, si manifestano, e se voi vi ci attaccate, ecco l'attaccamento, vi portano con sé. E cominciate a dare energia a questi pensieri. Ultimo, il dubbio. Il dubbio, perché dico che è in coppia, sarò l'unico al mondo a dire che è in coppia, perché in effetti sono cinque. Però perché il dubbio ha una doppia valenza. E difatti nei testi viene chiamato dubbio, dubbio costruttivo, anche dubbio scettico. Avete già capito che se sorge quello scettico, no? Che ha un po' a che fare con la repulsione, dovete osservarlo e lasciarlo andare. È un dubbio divisivo, mai unente. Tutte le emozioni negativo-distruttive, tutti gli stati d'essere negativo-distruttivi sono disunenti, divisivi. Ed è su quelli che dobbiamo intanto prestare la massima attenzione. Allora, quando sorge il dubbio scettico si comporta in questo modo. Dice, come prima, la meditazione non è buona, per me devo fare qualcos'altro, devo fare briscola, scacchi, dama, ok? Boh, anche cose più interessanti, queste sono già magari interessanti. Leggere, passeggiare, la meditazione non fa per me. E lì si torna, c'è un misto col tornare a non sono in grado, eccetera, eccetera, eccetera. Ma c'è anche qualcosa di più profondo, cioè è in qualche modo legato al dubbio scettico, al minare delle fondamenta la meditazione stessa. Guardate, il dubbio scettico si comporta in questo modo. In questo primo periodo, in cui mi auguro che l'entusiasmo sia tanto, perché se no arriviamo alla fine, cioè è un disastro, mi devo tenervi su con il polmone d'acciaio, e vi verrà magari di parlarne. Sai, sto facendo un corso di meditazione, bello, mi sto appassionando, e sto leggendo anche delle cose e magari sento anche qualcosina. E trovate dall'altra parte chi non ha alcuna voglia di impegnarsi in questo e mina questa roba e vi dice: ah, meditazione ad acqua fresca, fa niente, sono tutte bombole. Ma ci sono gli studi scientifici. Ma no, ma non c'è niente di scientifico, si inventa. Allora, questo atteggiamento che troverete di sicuro, ma che è insito anche in noi, è quell'atteggiamento che mi tiene distante dall'esperienza. E questo è molto importante. Cosa vuol dire tenersi distante dall'esperienza? Vuol dire schivare di immergersi in una cosa. Va male, perché se uno mi dice andiamo a fare, non so, caccia al leone con le mani nude, non è il caso, ma non so come mi vengono questi esempi. Però se io mi tengo distante dall'esperienza è perché in me c'è una condizione di paura di quell'esperienza. Cosa dice invece il dubbio positivo o costruttivo? Dice: quell'esperienza forse non fa per me, però la provo. Ci sono stati un sacco di insegnanti, un sacco di maestri, ci sono un sacco di persone che nei millenni ci hanno messo giù testi interi di benefici. Ora anche una branca della scienza ci dice questo. E allora perché non voglio provare? C'è qualcos'altro in me che mi tiene fuori da questa roba. E quello è il dubbio buono, perché sennò siamo dei pezzi di sughero che navigano nel mare, trasportati dalle onde. È giusto che venga in qualche maniera messo al vaglio, venga messa al vaglio l'esperienza, ma l'esperienza va messa al vaglio per farla, non per schivarla. Se sentiamo che è un'esperienza che potrebbe darci dei benefici. Ecco, questo è la doppia valenza del dubbio. Ok? Se incontra, la notizia interessante è che potrebbero mescolarsi tra di loro, quindi non è che ve ne arriva una bella nitida che potete identificare, no. Arrivano assieme, si mescolano. Il dubbio diventa repulsione, poi si trasforma in attaccamento, quindi nella confusione mi sale l'ansia, quindi diventa repulsione. Succede un po' di tutto. Qual è la bella notizia che ci dicono i maestri sui testi? Ci dicono, una volta superato, realmente superato, uno di questi ostacoli, non si presenta più. Non si presenta mai più. Si tratta di, nella norma naturalmente, perché se hai dormito mezz'ora la notte e ti metti la mattina, probabilmente un po' di torpore ti viene, insomma. Però vi assicuro che il torpore era, ad esempio, uno dei miei crucci iniziali e una volta superato non si è più fatto vedere. È come se scalassimo una... è come se oltrepassassimo un ostacolo e quell'ostacolo ci ha trasformato. Ed è quello il bello. È una cosa, a mio modo di vedere, meravigliosa. Perché proprio vuol dire che c'è stata una trasformazione, ve ne accorgete. Quindi ben venga uno di questi impedimenti, ben venga, perché una volta riconosciuto e lavorando su quello, una volta superato, ci sentiamo che la nostra meditazione è entrata in un altro stato. Prima vanno superati tutti e cinque, a volte qualcuno è così lieve che non si preserà mai. Ad esempio, nelle persone sempre un po' agitate, il torpore non gli viene mai, lavoreranno molto sull'agitazione. Una volta superati i cinque ostacoli, i cinque impedimenti, inizia il viaggio, quello più profondo, e allora lì ne parleremo nel corso di questi due mesi, ma ci sono una serie di stadi interessanti per arrivare ai stadi più elevati, ok? Chiunque può chiedere. Non è rispetto proprio a questo, quindi rispondimi se vuoi. Interessava un po' quando parli di osservazione. Certo. Se si può dire qualcosa. È il secondo tema. Okay. Il secondo tema. Quindi entreremo molto più in profondità nella questione della, parlando di disidentificazione. È estremamente importante. Però quella è la parte un po' teorica. Questa è la parte un po' più tecnica, metodologica. Allora, facciamo la nostra pratica. La pratica rispetto alla settimana scorsa sarà praticamente identica. Sappiamo che la pratica rimane quella per tutti e due i mesi, a cui aggiungerò un po' di più. Diciamo che questa sera aggiungeremo qualche minuto, aggiungeremo qualche pezzettino in più, magari le notazioni, ma insomma intanto la facciamo. Poi vi rimane anche registrata e quindi potete estrapolare il pezzettino e ascoltare solo quello se vi trovate bene con la mia voce. Va bene? Bene, spengo la luce, ci mettiamo nella nostra posizione di meditazione. Diamoci sempre un po' di tempo. Quando ci mettiamo nella nostra posizione di meditazione, per trovare la posizione migliore, per sistemare i vestiti, la postura, tutto quello che va sistemato, e in modo che poi viviamo un po' di immobilità. Ogni movimento ci porta un po' di distrazione, quindi se riusciamo rimaniamo sufficientemente fermi, non rigidi, mai rigidi, tutto è morbido in meditazione. La schiena è sufficientemente diritta, il mento lievemente abbassato, gli occhi morbidamente chiusi, le mani sono in grembo sulle ginocchia, come vi trovate bene. Iniziamo con qualche respiro un po' più profondo. E poi piano piano, lentamente, Lasciamo che la nostra attenzione si appoggi al ritmo del respiro. Con un po' di forza di volontà ed inizialmente con un po' di tenacia, cerchiamo proprio di osservare il respiro senza intervenire. È come se ci sedessimo a fianco del respiro e lo osservassimo mentre l'aria entra e l'aria esce. L'aria entra e l'aria esce. Cerchiamo piano piano, lentamente, di rilassare l'intero corpo, rimanendo sul ritmo del respiro. Osserviamo ora i punti di contatto del nostro corpo con il tappetino. Osserviamo ogni punto di contatto. E cerchiamo di avvertire le sensazioni che sorgono dai punti di contatto del corpo. Osserviamo i piedi che sono appoggiati sul tappetino, i glutei appoggiati sul cuscino, le mani che sono in grembo o sulle ginocchia. Quali sensazioni avvertiamo dai nostri punti di contatto? Le annotiamo mentalmente. Ogni sensazione viene annotata mentalmente. Potremmo sentire fresco, peso, umido, caldo, un formicolio, un prurito. Ogni sensazione viene annotata mentalmente. Se dovessi avvertire distrazione, se la mente inizia a vagare, Non è un problema, va bene così. Semplicemente riprendiamo la mente e con grande gentilezza la riportiamo al corpo e al respiro. Con volontà, ma con grande gentilezza. Ed ora, che da un po' che manteniamo il corpo in questa posizione, osserviamo l'intero corpo. E se incontriamo qualche contrazione, qualche dolore, qualche lieve sofferenza, una tensione, avviciniamo la mente a quel punto e in espirazione, quando l'aria esce dal corpo, cerchiamo di rilassare. Avviciniamo la mente al punto, si espira e si rilassa. Espiriamo e lasciamo andare. Avvicino la mente al punto, espiro e lascio andare, espiro e mollo. Piano piano il corpo andrà via via rilassandosi. Se la mente dovesse distrarsi, la riprendiamo e la riportiamo al respiro. E rimaniamo così, nel silenzio, per qualche minuto, fino a quando non vi richiamerò. facciamo con piccoli movimenti delle estremità. Riprendiamo piano piano contatto con il nostro corpo. E quando sentiamo che possiamo riaprire gli occhi lentamente, senza fretta. C'è la luce. Qualche minuto di feedback, quindi non facciamo feedback strutturati a giro perché sono tanti, ma se qualcuno vuole condividere la sua esperienza di questa pratica, come si è sentito, che cosa è accaduto. Io sentivo molta tensione, soprattutto nella parte dell'interno coscia, e facevo fatica, dicevo le spirate rilassate, e mi sarà quasi peggio, perché ci pensavo e quindi sentivo ancora di più la tensione. Sì, certo, quella è una forma di repulsione, però legata all'agitazione. Allora l'agitazione, che è un po' più diciamo così, materiale, un po' più fisica, si palesa, è interessante cercare di stare ad osservare il corpo che si agita. Quasi immediatamente il corpo tende a rilassarsi. Proviamo a stare un po' con questa agitazione, vediamola. Cioè vuol dire che se mi fa male proprio il corpo, ma quella è la postura, allora mi posso riunire, il massaggio alle gambe e poi le rimetto a posto. Ma se nell'osservazione mi accorgo che è un'agitazione che ha preso le gambe, quindi è di altra radice, e con la pratica mi accorgerò che questa è una cosa che capita, cercherò di stare con quell'agitazione, cercherò di starci vicino, come se volessi esplorarla. Il nostro primo approccio è sempre quello di risolvere una cosa che capita, no? Mi viene un prurito, diciamo l'altra volta, mi gratto, mi viene un dolore, mi massaggio. Non è sbagliato, ci mancherebbe altro. Ma proviamo, quello che facciamo qui è provare a stare per un po' prima di intervenire. Che non sia un intervento automatico, ma prima che ci sia... veniamo prima noi e poi tutto il resto, ok? È un'ottima abitudine, un'ottima pratica. Altre riflessioni? Per me è il contrario, invece, adesso che ho appurato che espirando potevo rilassare, ho puntato l'attenzione su quello che mi faceva male e ha lasciato andare. È andato via. Certo. Allora, avvicinare la mente a quel punto lì, chiaro, se è un dolore fisico ed è un dolore forte, non succede niente. Ma se invece, o se no, non è vero che non succede niente, succede sempre qualcosa. Ma se è un dolore lieve ed è una cosa che è quasi sicuramente nata per distrarmi o per... mi avvicino e piano piano sparisce. Se sia una cosa che sembra magica le prime volte. Senza intervenire, perché quello è bello. Esatto. Bene, altre testimonianze? Io sì, ho provato a farlo staccato dal muro. Sì. Sentivo che la schiena pian piano si incurvava, si rilassava, allora ho cercato di concentrarmi sulla schiena e ispirare, tirarmi su, la volta andavo giù, su e giù. Non so se sia stato sbagliato concentrarsi anziché sul respiro, ma sulla schiena. Su un altro punto. Allora diciamo che c'è poco di sbagliato nella meditazione. Devo semplicemente osservare. Sì. Allora, le categorie giusto e sbagliato cerchiamo di lasciarle da un'altra parte. Proviamo a vivere nell'esperienza. l'esperienza non è giusta o sbagliata. È vero, se mi faccio del male o muoio, potremmo definirla magari sbagliata. Ma non c'è giusto e sbagliato, c'è l'esperienza. Questo è una cosa estremamente importante, guardate, non è una osservazione peregrina. Tutto ciò che nasce dal giusto o sbagliato nasce da una categoria mentale, e così arriviamo anche al secondo punto della serata. Nasce da categorie mentali, giusto o sbagliato, bianco o nero, alto o basso, cattivo, buono, bene, male, ok? Sono quasi sempre categorie mentali. E quello che invece dobbiamo imparare è che nella meditazione vinciamo sempre, perché nella meditazione stiamo nell'esperienza, non c'è un giudizio. Il giudizio mi porta sempre fuori dallo stato di presenza e consapevolezza, perché mi porta in uno stato di schema mentale. Quindi comincio a dire: sto sbagliando, sto facendo giusto, sto facendo bene, sto facendo male. Quella è la mente. E non è sbagliata quella mente, come a volte si incontra in alcuni testi, soprattutto quelli vecchi di induismo, ma è quello il suo comportamento. Il problema è che noi ci identifichiamo in quegli schemi mentali. Ecco l'identificazione. Adesso andiamo più in fondo. Tornando. Quindi, se nell'esperienza vinco sempre, significa che non potrò mai sbagliare. Perché vinco sempre? Perché se sto trovando la presenza, che è ciò che cerchiamo, e quindi se a mano io mi sento di essere nella pura presenza, lì chiaramente nelle categorie mentali sto facendo giusto, ma perché sono nella presenza, quindi amplio la mia consapevolezza, sento di essere, mi avvicino all'essenza, tutte queste robe qua, no? Se invece tutti i 10 minuti ho avuto male un ginocchio, ho smadonnato, ho cominciato a pensare a tutte le cose del mondo, la testa mi si è riempita, ad un certo punto mi è sorta l'ansia e poi pure il torpore, quando riemergiamo diciamo: ho sbagliato tutto. Si dice così, no? Non sono capace, e così via. Quindi entriamo nella categoria mentale, ma non è così. È stata un'esperienza importantissima. Perché se io mi ero proiettato come un grande meditatore o avevo pensato che sarà una puttanata, la faccio in 2 o 3 giorni, la imparo, invece mi sono rimesso in contatto con me stesso. E il me stesso qual è? Quello che ha male al ginocchio, quello che ha male alla schiena, quello che si incurva e che è costretto a raddrizzarsi. Ma non è che è giusto o sbagliato. Sì, dicevamo l'altra volta che il mio compito è quello di darmi un metodo e cercare che questo metodo sia efficace, questo è vero, ma se io sto nell'esperienza, dall'esperienza imparo sempre. Inquadrata la cosa? È fondamentale, fondamentale. Nel senso che in questo modo rimarrò nella pratica sicuro di non sbagliare mai. Perché? Perché anche la peggiore meditazione del mondo, quella che per 10 minuti quasi mi veniva da piangere, oppure sono stato tutto il tempo in ufficio, anche se ero seduto sulla cosa, no? A pagare fatture, neanche a farle per me, a pagarle, no? Semplicemente ho vissuto l'esperienza, che è l'esperienza del Demetrio di questo preciso istante. E da quella parte, non da qualcosa che ho in mente, che penso io che sia, no? Quella è l'esperienza, io quello sono in quel momento. E questo è il materiale che ho in mano per procedere nella mia pratica meditativa. Mi seguite su questo? Sì. È molto importante, estremamente importante. Perché così comincio intanto ad uscire da un'illusione. La prima illusione, che è quella che è coltivata nella mia mente, che è quella che io sono altro da quello che sono realmente. Noi ci dipingiamo sempre con categorie mentali. Sono questo o sono quest'altro? Sono tizio, sono caio, sono bravissimo o sono pessimo, è uguale. La persona che si denigra costantemente è identica a quella che si enfatizza costantemente. Semplicemente sta in una categoria mentale, perché gli fa comodo per mille situazioni. Torniamo alla nostra seconda, seconda tematica, che ha a che fare con la osservazione ma, e che nasce dalla identificazione. Tutto il percorso buddista potremmo dire con grande serenità che, come dicevo l'altra volta, ha a che fare col processo di disidentificazione. Che cos'è la disidentificazione e perché la meditazione mi aiuta nella disidentificazione? Noi viviamo costantemente identificati. Identificati vuol dire che cerchiamo, siamo praticamente identici, ci sentiamo immersi identici con le categorie mentali che abbiamo costruito nel corso della nostra vita. Quello che trovate nei testi si chiama ego. Ne avrete sentito parlare un sacco di volte, no? Dell'ego. A me non piace tantissimo come termine, perché è stato molto svalutato, ha perso una serie di... insomma, è diventato come fosse il lupo cattivo, non è la storia di Capuccetto Rosso. E di fatto invece il tuo ego, bisogna occupare l'ego, queste cose qua. Sono tutte puttanate, mi spiace che viene registrato, insomma. Nel senso che a me piace chiamarla personalità, perché deriva da persona, persona in latino significa maschera, e perché noi assumiamo una serie di ruoli nelle relazioni che abbiamo. Ed è giusto questo, è giusto che le mie parti mi siano utili per relazionarmi con chi in quel momento sto parlando o sto avendo un rapporto di qualsiasi tipo, amicale, affettivo, lavorativo, professionale, quello che volete. In questo caso io ho assunto il ruolo di docente di meditazione, ma nella vita non sono un docente di meditazione, sono anche un docente di meditazione, ma faccio mille altre cose, ok? Letteralmente, fra l'altro. Ma nel senso che il problema non è che esiste una personalità e che quindi ogni volta io assumo una maschera per relazionarmi, è che non me ne rendo conto. Quella maschera diventa come quella del film The Mask, non l'avete mai visto quel film? Se la mette addosso e si incarna. Io lì, quando l'ho visto la prima volta, ho detto: ma è proprio la, è perfetta per un esempio della personalità. Noi ci identifichiamo con quel ruolo a tal punto che se quel ruolo viene minato o viene offeso o viene denigrato, eccetera, eccetera, eccetera, c'è un crollo di tutto noi, sì o no? Subentra la tristezza, l'ansia, la paura, la rabbia, perché quel ruolo è stato minato, è stato denigrato, è stato offeso. Quindi sorge una categoria mentale per difendere una maschera. Come se fosse possibile che un'altra persona o altre persone possano far crollare la nostra essenza. Impossibile. Quella maschera in quel momento sarà in difficoltà. Avrà una serie di problematiche da risolvere. Ma è una parte di me, non tutto me. Mi seguite su questo terreno? Terreno importantissimo. Perché nasce proprio l'identificazione da questo noi adagiarci completamente ed entrare completamente nella parte. Una volta entrati completamente nella parte, difficilmente riusciamo a rimanere appunto in osservazione di come è questa parte. Ciò che fa la meditazione è, da questo punto di vista, magico. Stabilisce il suo, la sua radice, la sua fondamenta nell'essenza, nella presenza. Qual è la differenza che c'è tra la personalità e la presenza? Che la personalità, abbiamo detto semplicemente, è uno dei tanti ruoli che assumiamo nella giornata. Ma la personalità è immersa in quella che viene chiamata mente reattiva o mente razionale. Ed è una parte della mente, o diciamo così, la mente, che è immersa nel tempo. È una mente che costantemente proietta nel futuro o si radica nel passato. Ogni volta che noi assumiamo un ruolo, se voi fate caso e cominciate attraverso la pratica meditativa, ma attraverso la presenza quotidiana, vedrete che siete sempre abitati da uno stato mentale che proietta nel futuro, si radica nel passato, non vive mai nel presente. Ma il presente è l'unico tempo reale. In questo ci viene in aiuto Sant'Agostino, ma anche tanti altri. Se volete una buona lettura su questo, senza scomodare gli orientali, che a volte sono anche, alcuni di loro sono difficili, c'è un bel testo di Eckhart Tolle che è Un nuovo mondo. Il potere di adesso, lo dice il testo stesso, ma Un nuovo mondo, direi che forse è ancora più, anche se Il potere di adesso è il best seller che ha scritto, insomma, lui. Ed è molto chiaro quando spiego queste cose, ma ci sono tanti, adesso mi è venuto in mente questo. Quindi, se noi stabiliamo il nostro quartier generale, chiamiamolo così, nell'adesso, e la meditazione coltiva, quel famoso testimone, osservatore, sentinella, presenza, di cui parlavamo l'altra volta, semplicemente noi sentiamo quando assumiamo un ruolo. Lo sentiamo. E quindi quel ruolo non diventa più noi, ma diventa quella parte di noi che ci è utile per... che ci è utile, ad esempio, in questo caso, io sto assumendo il ruolo di docente per aiutare voi ad entrare nella pratica meditativa. Ma è una parte di me. Fino a 2 ore fa ero immerso nella mia parte lavorativa, la mia professione è quella dell'informatico, faccio... informatico, sono uno sviluppatore, e quindi in quella versione lì ho un altro ruolo, ma non sono quello. E questo vale per tutto. Nel momento in cui vi siete immersi in un qualsiasi ruolo, sapete che è una parte di voi che si palesa, fino alle parti più profonde, che vedremo magari anche nei moduli successivi, perché ce ne sono alcune di molto profonde. La madre o il padre, ad esempio, no? Sarà anche un ruolo, ma è un ruolo, cioè, disidentificarsi è quasi impossibile. Ma ci sono ruoli anche molto semplici, non so, il lavoro è una parte di me, ok? Ecco, questo è molto importante. Come riconosco se sono nella presenza o se sono in un ruolo? Nel ruolo sono immerso nel tempo. La mia mente continua a parlarmi, continua a dire, continua a fare, continua a farmi vedere un mondo futuro o farmi vedere un mondo passato. Probabilmente a volte instillerà l'ansia e l'angoscia. Come faccio a sapere invece di essere nella pura presenza? C'è assoluto silenzio. C'è assoluto silenzio. E se anche sorge una di queste parti, io dal silenzio sento la parte che sta agendo. Ok? Non è una dissociazione, non pensate che portiamo quella schizofrenia, è tutto profondamente integrato, ma c'è questa presenza che io sento nel momento in cui sto acquisendo, sto utilizzando, non mi piace tanto, ma sto incarnando questa parte. Capite? È molto, secondo me, interessante come esperienza, quando la vivrete, perché la vivrete di sicuro, perché a forza di continuare a coltivare questa presenza esisterà, arriverà un momento in cui sentite ad esempio che sorge la rabbia o sentite che sorge un'emozione negativa o distruttiva di qualsiasi tipo, la sentite, sentite che viene su e in voi c'è questa prima sensazione di ma io non sono questo, non sono sta roba qua, questa è una parte di me sofferente che si sta palesando. Cosa faccio? Ci sto, lo sento, lo faccio esprimere chiaramente. Ok? Questo è molto importante perché guardate, io direi che la stragrande, il lavoro più potente che fa la meditazione inizialmente e quindi inizialmente sapete che ormai i miei tempi sono biblici, non parlo di giorni o settimane. Inizialmente è proprio questo, è proprio quello di cominciare un percorso che attraverso l'osservazione porta alla disidentificazione. Ci vuole una grande pazienza perché i meccanismi attualmente sono i contrari. Cioè, nel momento in cui sorge un ruolo, io semplicemente mi identifico. Mi seguite su questa cosa? Semplicemente mi identifico e non va male, ripeto, non è sbagliato. Funzionare così non è che è la fine del mondo, ma il problema è che quella sofferenza, quel dolore, semplicemente mi pervade completamente. Mi pervade completamente e mi trascina con sé. Quindi sono incarno quel dolore completamente. Il buddismo nasce da questo, eh? Le quattro nobili verità. Quando il Buddha ritornò dal suo percorso di percorso, dalla notte fatta sotto l'albero della Bodhi in cui si illuminò, la prima cosa che diede all'umanità furono le quattro nobili verità. E la prima nobile verità non è volemose bene, no, tutto bene, peace and love, il mondo è bello come è, sole brilla, no. La prima nobile verità è: esiste la sofferenza. Prima. Cioè, da questo perno è nata una filosofia che per 2500 anni ha lavorato su questo. Esiste la sofferenza. E dice, dimmi a casa come va il mago, che so. Andiamo a casa tristi. La seconda è: esiste una radice di questa sofferenza. E questa radice, terza nobile verità, si può sradicare. Quarta nobile verità, come si sradica? Ottuplice sentiero. Quindi lui disse, esiste la sofferenza, ma ha una radice. Questa radice può essere sradicata. E ti dice come? L'ottuplice sentiero. Retta parola, retta azione, retto pensiero, retta concentrazione, eccetera, eccetera. Noi ci occupiamo della retta meditazione, c'è anche tutto il resto, ma la retta meditazione è il perno. Perché il perno? È perché è quella che si accorge della radice. Perché nella sofferenza noi ci viviamo, perché a volte ci capita, dalla sofferenza fisica, se devo piantare un quadro mi becco dentro col martello un dito, alle sofferenze molto più sottili. L'abbandono, la perdita, l'arrabbiatura, la sofferenza per la perdita di qualcuno, cioè ne abbiamo finché vogliamo, no? Ecco, queste sofferenze hanno una radice, la meditazione va alla radice e prova a sradicarla. Noi non potremo fare questo lavoro qua, faremo un lavoro diverso, che è quella dell'attenuazione di questa radice e di questa sofferenza. Per sradicarla, capite bene che bisogna dedicare vite intere, però insomma da qualche parte bisogna cominciare. Ok, ci sono domande su questo? Forza, un'assoluta tranquillità. Non penso non ci possano essere domande. Stavo pensando di formulare la mia domanda, ma vediamo se riesco. Allora, la presenza che ti identifichi con la famiglia, il lavoro, no? E poi magari nel senso di Alessandro che sta facendo il suo lavoro, guarda Alessandro che sta l'altro Alessandro, no? Mi sdoppio che osservo Alessandro che fa il suo lavoro, come lo fa, come procede, ma è una realtà. Ma non è proprio così, Ale, non è proprio così, nel senso che questo ha come, capisco che sia difficile da capire all'inizio perché Il tranello potrebbe essere questo, perché nel momento in cui io comincio a guardare in questo modo, sorge quasi sicuramente qualcosa di più subdolo, che è il giudizio. E quando sorge il giudizio, cioè io guardo me stesso mentre lavoro e cosa faccio? Comincio a dire faccio bene, faccio male. E nel momento in cui entro nel giudizio sono perfettamente dentro ad uno di questi sistemi, ad uno di questi schemi. Non è che guardo, che mi guardo così per guardarmi, è più un sento come sto, è più un sto in quello che sento. E quello che sento cosa porta? E è molto diverso dal cominciare ad osservare tutti i vari me, perché vado via di testa, se no. È più un costantemente stare nel sentire. Capite la differenza? Mi seguite sulla differenza? Sì. Stare nel sentire è molto diverso, perché mi fa stare anche con quella parte di me che invece giudicherei male, perché è una parte che magari ogni tanto, che ne so, è triste o è arrabbiata o è disimpegnata, oppure fa le cose tanto per fare, o è truffaldina, che ne so, o è bugiarda. Cosa succederebbe se io mi guardassi, che in quel momento, nel momento in cui sono bugiardo, cosa succederebbe? Che semplicemente in me si innescherebbe un giudizio. Ma allora sono personalità nella personalità, e allora lì si innesca un meccanismo che è un disastro. E invece quello che vi chiedo, ed è una domanda ottima questa, è di stare nel sentire, ascoltare senza giudizio. Nel momento in cui sorge il giudizio, perché sorge sicuramente il giudizio, sento di essere immerso in uno di questi ruoli di nuovo. Perché è come una matriosca, sapete cosa sono le matriosche? Una dentro l'altra. Quindi inizialmente ci sarà un po' di confusione, ma quello che facciamo è sempre tornare alla presenza. Posso anche chiudere gli occhi e stare nel respiro, in maniera molto, molto, molto profonda. Cioè, se sento che sono in questa circonvoluzione che comincia a bollire la testa, mollo tutto e sto nel respiro. Faccio 2-3 respiri, 5 respiri, 1 minuto, 2. Mollo tutto. Ma io sono immerso in me stesso, cioè mi ascolto costantemente, perché è solo in questo modo che io vivo le mie parti, che non sono sbagliate, sono le mie parti che si manifestano. Vengono chiamate subpersonalità nella psicologia psicosintetica. Ecco, non vorrei farvi confusione, quindi semplicemente rimanete sempre e puramente nell'ascolto, e quando sorge un giudizio sapete che quel giudizio è personalità, è ego. Ok? A volte ma tutti siamo nella stessa barca, di Riffa o di Raffa, siamo tutti nella stessa barca. Ma si vive molto meglio accettandosi, che non vuol dire usare l'accetta, ma accogliendosi, ok? Accogliendosi per ciò che si è in quel momento. Che non vuol dire che va bene tutto, vuol dire essere molto sinceri con se stessi, ma accettandosi. Perché, vedete, nelle scuole antiche di iniziazione, quelle al discepolo che arrivava, a parte che, come vi ho già detto, bisognava che stesse zitto per anni, gli si chiedeva: ciò che tu devi fare adesso non è imparare cose, non è apprendere, devi capire a che punto sei, e poi da lì farai il primo passo. Qual è il punto in cui siamo? Qual è il punto in cui siamo? Sono una persona rabbiosa, rancorosa. Sono una persona ansiosa, sento l'ansia che sorge ogni altro momento in me. Molto sincero, molto più. E convivere, stare con queste parti di noi che ogni tanto si palesano e combinano guai. Ok? Ecco, quello che è importante è capire che tutti gli schemi mentali che ci abitano, che io ho chiamato questa sera personalità, sono tutte modalità di approccio alla vita, alle persone, alle relazioni, non sbagliate, ma sono quelle. Quando è che posso dire che in effetti non sono consone a quello che dicevo prima di stare nell'essenza? Se procurano sofferenza. Faccio star male qualcuno? Lo faccio soffrire? Beh, questo è già un buon viatico per capire che quella parte di me, quando si palesa, non è proprio del tutto armoniosa e centrata. Giusto? Allora, se questa parte di me si palesa e ogni volta che viene fuori fa soffrire qualcuno, non è che la freniamo, ma cominciamo ad osservarla. Osservarla significa che, osservarla con l'idea di non giudicarla, ma di starci. Chiaramente, spero non ci sia nessun serial killer qua dentro, di starci, perché così, se riesco a stare in osservazione, prima cosa non do più energia, non la coltivo. Mentre se mi identifico mi faccio trascinare, perché prende lei il sopravvento, questa parte di me, e io non sono più in controllo. Ecco perché poi c'è un meccanismo di degrado di queste situazioni. Ad esempio, il lamentarsi. No, il lamentarsi. Il lamentarsi della vita, il lamentarsi delle cose, il lamentarsi degli altri, il lamentarsi dei colleghi, il lamentarsi del coniuge, del compagno o della compagna, del lavoro, del governo, è di questo e di quello. Che cos'è? È una forma di giudizio che nasce dalla mia mente separativa, ok? Dalla mia mente giudicante. Il lamentarsi nel tempo degrada e diventa, da lamentarsi diventa rabbia magari. La rabbia può diventare espressione fisica anche, quindi si diventa anche violenti. Ma tutte queste situazioni nascono dal completo aderire alla mente reattiva, che è abitata da una serie di schemi mentali che abbiamo acquisito e accumulato nel tempo, attraverso l'educazione, attraverso i genitori, attraverso gli insegnanti, attraverso l'area in cui viviamo, la zona, eccetera, eccetera, eccetera. Questo bagaglio non è sbagliato, ma ci guida. Lo sbagliato è che siamo eterodiretti. Invece io voglio avere in mano la croce. Per avere in mano la croce si parte dalla presenza e dall'essere in grado di sentire che queste parti sorgono e fanno quello che devono fare. Ecco cosa fa la meditazione. La meditazione fa soprattutto questo, nella parte iniziale. Poi c'è tutta la parte spirituale, ma quello attiene a chi fa della meditazione proprio la vita. Quindi lì c'è tutta una parte esoterica, ma noi non ce ne frega niente di quella parte. Già qua abbiamo un grandissimo lavoro, enorme. Perché è un lavoro che ci permetterà nel tempo e con la pazienza, ci permetterà di smontarci e di montarci in un altro modo. Ok? Smontarci vuol dire effettivamente, si parla addirittura nei testi di ricostruzione del carattere. È proprio un termine che viene utilizzato, ricostruzione del carattere. Cosa significa? Significa che mi accorgo che queste parti mi dirigono, semplicemente io sto, ascolto, e questa parte, accogliendola, integrandola, lo vedremo nel tempo, si trasforma, diventa parte di me, e quella che era una emozione negativa o distruttiva prende la sua parte luce, invece che rimanere ombra, prende la sua parte luce. Quell'energia viene convogliata per il bene, non per il male. Anche se, come dicevo prima, sono categorie. Quindi chiamiamo per l'armonia invece che per la disarmonia. Ok? È affascinante sta roba o no? Sì, cioè, vi gatti che io mi appassiono, ma magari sono l'unico qua, state tutti sull'orlo del sonno. Nel senso che a me appassiona tanto, però non vorrei tediarvi con discorsi. Però capite, si tratta di quella storia del torpore prima. Il mio compito, soprattutto all'inizio, è quello di mettervi la voglia. Senti, ascolta una curiosità. Il peso diciamo la cultura, il popolo, l'uomo di per sé, di natura, non tutti, se no appunto sei qua per fare questo percorso per migliorarsi, certo, e arrivare all'essenza, no? Certo. Togliere tutte le croste e crosticine, certo, strati, sovrastrati. È un bel lavoro, nel senso. Beh, io una volta. Questo qua è un periodo un po' tra l'altro. Sì, sì, qui è l'oscurantismo proprio. Le croste sono belle stesse. Io questa domanda la feci tanti anni fa a uno dei miei primissimi maestri, ma tanti anni fa, avevo proprio una chioma fluente. Allora gli chiesi questa cosa qua e lui mi rispose in maniera molto molto tranciana e disse: ma cos'hai di meglio da fare? Di meglio da fare, io mi sono alzato, sono salutato, sì. No, perché cosa rispondi? Di meglio, cioè, di meglio a mia non c'è niente, perché tutto il resto dovrebbe essere apparato di questo, dovrebbe essere coadivo di questo. Per cui ecco perché io intanto entro nelle scuole e parlo di ste robe, entro nelle aziende e parlo di ste robe, perché penso che almeno devi saperlo, almeno devi saperlo. Vi lascio andare. La settimana prossima, se riuscite, mettete la registrazione, io poi vi metterò delle cose, le passo a Ale, e tutta questa settimana, cioè come non ci fosse un domani, meditate come non ci fosse un domani. E grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Ah, io ho un canale Telegram in cui parlo di queste cose, non so se qualcuno...